sei nata per amar. Era scritto nel cielo, solo te posso adorar. Era scritto nel cielo, io vivrò solo per te. Era scritto nel cielo, e che tu vuoi bene a me. Era scritto nel cielo. Ti offrirò tutti i tesori, era scritto nel cielo, una casa tutta d'oro, era scritto nel cielo, un brillante d'un vison, era scritto nel cielo, il mio cuor, la mia passione, era scritto nel cielo. Il mio amor sei solo tu, era scritto nel cielo, e io t'amo sempre più, era scritto nel cielo, mille baci ti darò, era scritto nel cielo, al mio cuor ti stringerò, era scritto nel cielo. E se un dì ci sposeremo, era scritto nel cielo, sempre insieme resteremo, era scritto nel cielo, tanti bimbi infine avremo, era scritto nel cielo, e felici noi saremo, era scritto nel cielo. Era scritto su